America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Fra un tre quarti d'ora, diciamo, avremo un dato economico che ci dirà se la borsa continuerà a rotolare al ribasso come ha continuato a fare ieri o se potrà stabilizzarsi. Avremo cioè il dato sulla disoccupazione per il mese di giugno negli Stati Uniti. Vi dico subito che le attese non sono molto ottimistiche, anzi, secondo le previsioni degli analisti, dovrebbero esserci fino a 100.000 nuovi disoccupati, quindi non creazione di posti di lavoro, ma una distruzione netta di posti di lavoro. Del resto questo era un po' nell'aria. Abbiamo visto un paio di giorni fa il dato della ADP che stimava in appena 13.000 persone i nuovi lavoratori dipendenti creati nel settore privato. Ieri abbiamo avuto un altro dato non esattamente rassicurante: c'è stato un aumento delle richieste dei sussidi alla disoccupazione, di nuovo 13.000 unità. Quindi i dati per ora sul fronte occupazione non promettono bene. Staremo a vedere naturalmente che cosa emergerà, ma l'idea di alcuni è che forse per una volta, dopo che questa psicosi negativa è andata a crearsi per svariati giorni, chissà, forse sulla notizia per una volta si compra. Ecco, l'idea che sulla notizia del tasso di disoccupazione si possa comprare ovviamente è suggestiva. Il fatto è che purtroppo ci sono ben altri dati che continuano a confermare il fatto che l'economia americana si sta indebolendo e non rafforzando. Questo preoccupa, questo in qualche modo conferma la tesi del presidente Barack Obama, che aveva portato al vertice di Toronto l'avvertimento ai leader europei che volevano procedere con tagli di spesa nel momento in cui invece l'economia sembra perdere colpi e avrebbe bisogno dunque di nuovo carburante. E dunque i dati ulteriori che abbiamo avuto soltanto ieri sono stati sul fronte dell'attività manifatturiera, che è stato il traino della ripresa finora. Bene, mostra stanchezza perché si è attestato a 56,2 punti in giugno rispetto ai 59,7 punti di maggio. Di nuovo, il brutto è che gli analisti si aspettavano un dato di 60, invece è in calo. E in calo anche l'altro dato di ieri, riguarda il settore immobiliare. Due dati in questo caso: i compromessi per la vendita di case esistenti sono scesi del 30% in maggio rispetto ad aprile, hanno toccato il minimo storico. Il secondo dato invece riguarda le spese per le costruzioni, anche lui al ribasso, seppure più contenuto, dello 0,2%. Quando abbiamo indicazioni che si muovono tutte in una stessa direzione, settore manifatturiero tutto sommato volto al pessimismo, anche se vorrei ricordarvi siamo al di sopra di quota 50 e quindi questo significa essere comunque in una situazione di crescita. Quando il settore immobiliare, nonostante un salvagente che aveva avuto e che poi gli è stato tolto, ma insomma a un certo punto tutti debbono correre sulle proprie gambe e fa male come ha fatto, quando la disoccupazione persiste, non ci si può accontentare, soprattutto in America, di tassi di crescita molto bassi. L'America ha bisogno di un colpo di reni, questo colpo di reni non arriva. Il presidente Barack Obama annuncerà un progetto di spesa di circa $1 miliardo disseminato un po' in tutto il paese, che dovrebbe creare 5.000 nuovi posti di lavoro. Poca roba. Ci vorrà ben altro per rimettere la situazione in carreggiata. Sentiamo adesso il presidente Barack Obama, che non si è occupato di economia ma di immigrazione. And it's not just that the law Arizona passed is divisive, although it has fanned the flames of an already contentious debate. È dunque la quarta sfida del presidente americano, la quarta sfida ai repubblicani dopo sanità, riforma finanziaria, riforma energetica, che ha proposto così sull'onda degli scandali della macchia nera della British Petroleum, ma adesso apre all'immigrazione. In realtà la sua è un'apertura piuttosto avveduta, perché esiste già un progetto di legge bipartitico firmato da Chuck Schumer, senatore democratico dello Stato di New York, e da Lindsey Graham, senatore repubblicano della Carolina del Sud. Dunque due personaggi diametralmente opposti che però si trovano schierati sullo stesso fronte, quello di risolvere il problema di 11 milioni di immigrati illegali che oggi vivono negli Stati Uniti. La strana coppia Schumer-Graham è tra l'altro la stessa che aveva minacciato ritorsioni commerciali contro la Cina se non si fosse rivalutato lo yuan. Ma la parola ieri è andata al presidente. Barack Obama ha ricordato un po' tutti quelli che sono, diciamo, i luoghi comuni, diciamo pure così, che riguardano l'immigrazione americana. L'America è un paese fatto di immigrati, l'America deve essere un paese aperto nei confronti degli immigrati, l'America non può costruire delle barriere in cui cadono tutti, anche i cervelli importanti che potrebbero venire in questo paese. Barack Obama ha ricordato Einstein, ha ricordato Brin, il fondatore, il cofondatore di Google. E dunque il fatto che ci siano centinaia di migliaia di messicani o di altri sudamericani che arrivano dal confine meridionale ed entrano illegalmente non può consentire di fare di tutta un'erba un fascio. Il presidente è stato molto determinato, molto deciso. Questi 11 milioni dovranno trovare dei corridoi preferenziali per poter regolarizzare la loro posizione. Il suo è anche un intervento contro la legge passata dall'Arizona in cui un poliziotto può arrestare per strada chiunque, verificare se ha le carte in ordine. Se non sono in ordine viene immediatamente deportato, e questo indipendentemente dal fatto che il poveretto può aver vissuto magari in questo paese per 5, 6, 10 anni, essersi fatto una famiglia, avere dei figli, sparisce e di lui non si sa più nulla, o meglio viene rimpatriato e poi si saprà che non potrà tornare più qui. Quindi è una situazione davvero, sono usciti vari articoli negli Stati Uniti di storie drammatiche che hanno colpito molte famiglie di immigrati qua negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti non possono fare a meno di questi immigrati, insomma sarebbe ipocrita dire che questi vengono e sono sanguisughe. No, questi vengono, lavorano, fanno i braccianti, vengono ingaggiati dalle fabbriche, quindi c'è un intero sistema che poggia su questa forza di lavoro nera. Ecco, il problema è tradurla in forza di lavoro bianco. Tutti sono d'accordo nel farlo. Il progetto di legge che Barack Obama appoggia non è molto diverso da quello che propose Bush durante l'ultimo anno della sua amministrazione. Ebbene, non è chiaro se verrà approvato. Perché? Perché diventa tutto politico. C'è dunque la parte economica, c'è la parte morale etica, c'è la parte giuridica, ma c'è anche la parte politica. Se Barack Obama interviene oggi è perché è anche chiaro che all'orizzonte ci sono le elezioni di novembre. Con questo suo intervento appoggia, se il progetto di legge dovesse passare o comunque dovesse andare avanti, appoggia un suo alleato fedelissimo, Harry Reid, il capo della maggioranza al Senato, che rischia grosso in Nevada. Il presidente strizza anche l'occhio a un serbatoio di voti importanti, quello dei latinoamericani, che sono ormai qualche decina di milioni qua negli Stati Uniti. Bene, siamo in chiusura, una notizia leggera, curiosa, emergenza vermi su un volo della US Airways ha costretto il pilota a un atterraggio di emergenza. Cosa è successo? Beh, il solito passeggero bizzarro ha deciso di portarsi della carne dentro la sua valigia e ha messo la valigia nel portabagagli, diciamo nel ripostiglio sopra i sedili. Ecco, se non che la carne era avariata. E a un certo punto larve, vermi, altri insetti hanno cominciato a fuoriuscire da questa valigia e a precipitare sulle teste dei passeggeri. Immaginate la scena di panico. L'aereo doveva andare a Charlotte in North Carolina e dunque è stato costretto immediatamente al rientro all'aeroporto d'Atlanta. Il pilota disperato ha deciso che bisognava disinfestare questo Boeing 737. Non portate carne avariata a bordo, mi raccomando. Beh, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, la voglio dedicare a Brian Wilson dei Beach Boys, perché ha annunciato che sta lavorando a un nuovo album e che questo nuovo album uscirà il 17 d'agosto. Si intitola Brian Wilson Reimagines George Gershwin. Wilson ha trovato dei lavori mai terminati dello straordinario compositore di Gershwin e ha concluso, ha riproposto queste canzoni. In attesa di sentirle, vi dedico un classico dei Beach Boys, Good Vibrations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Da New York è tutto, abbiamo adesso il weekend del 4 di luglio, 4th of July. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.